Oggi celebriamo la festa del Corpus Domini, il corpo del Signore, che è l'Eucaristia, e concludiamo un ciclo di feste importantissime nell'anno liturgico. C'è stata la Pasqua, che è il perno di tutto, centro di tutto, con 6 settimane di tempo pasquale. È venuta poi l'ascensione, Gesù ritorna al Padre, ma per mandare lo Spirito Santo, terza festa, la Pentecoste. La Chiesa poi, dopo aver vissuto questi misteri fondamentali, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, celebra la festa della Santa Trinità. Veramente noi ogni volta che facciamo un segno di croce, che diciamo un gloria, noi celebriamo la Santa Trinità, però la Chiesa, che è madre e anche maestra, sa che dobbiamo focalizzare le realtà più importanti in maniera particolare. E così conclude poi con la festa del Corpus Domini, che di per sé ogni giorno in cui si celebra messa è questa festa, ma anche qui la Chiesa sottolinea questo aspetto per dire: caro popolo cristiano, hai celebrato un periodo fortissimo di vita cristiana, coraggio! Allora io, prima di addentrarmi a dire qualcosina del Corpus Domini, voglio invocare lo Spirito Santo, da cui proviene ogni sapienza e ogni dono di intelletto. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Mi rendo conto che parlare dell'Eucaristia in 8 minuti, 10, è follia. Tenterò ugualmente qualche spunto, sperando di suscitare in voi il desiderio di approfondire. Le tre letture oggi sono legate da un tema comune, l'alleanza. È un tema che non si usa molto nella nostra vita di tutti i giorni, eppure è fondamentale. Se noi possiamo vivere, è perché noi stringiamo alleanze tutti i momenti. Un uomo e una donna che si amano non stringono un'alleanza? E un uomo e una donna che mettono al mondo un figlio non stringono un'alleanza con lui per tutta la vita? Per non parlare delle alleanze sociali, economiche, politiche, di guerra. Quante alleanze! Nessun uomo è un'isola. Non possiamo vivere da soli. Anche religiosamente, il Signore ha stretto un'alleanza con noi, non perché noi potessimo dare qualcosa a Lui, è perché Lui ci dà in un'alleanza, le controparti si mettono d'accordo per sostenersi reciprocamente. Ma è chiaro che noi non possiamo dare nulla a Dio se non la nostra lode, la nostra preghiera. È il Signore che ci dà tutto. E questa alleanza avviene non firmando un libro, una pergamena sotto gli occhi della telecamera. Questa alleanza avviene col sangue, è un patto di sangue. Anzitutto agli inizi sacrificando in onore di Dio degli animali, come era usanza a quel tempo. Poi, con la nuova ed eterna alleanza, col sangue di Cristo. Lo dice la lettera agli Ebrei: non col sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue. E il Vangelo dirà: prese il calice, lo offre a tutti e dice: questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti. E il Signore sa quanto dovremmo approfondire questo, amici. Il sangue di Cristo noi non lo consideriamo quasi più, ma lo conosce bene l'esorcista. Perché quando nomina il sangue di Cristo il diavolo ammattisce. E io normalmente chiedo al Signore che il sangue di Cristo che scaturisce dalla sua croce ci rivesta come una corazza, come una tunica invincibile e sia scagliato come un torrente di fuoco contro Satana per annientarlo. Il sangue di Cristo, amici. Oh, quanti temi ci sono nella vita cristiana che meriterebbero di stare insieme tutta una vita ad approfondirli. Sull'onda di questo mi è venuta voglia di aprire un libro che a suo tempo ho letto attentamente, ho studiato, ma che attualmente era lì nella mia libreria a prendere polvere, come temo nelle librerie di tantissimi preti. Forse se ce l'avete anche da voi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica. È un libro fantastico. Io appena l'ho letto e ho guardato le decine e decine di pagine che parlavano dell'Eucaristia, mi è venuto come un impeto di pianto e di dire: ma Ambrogio, ma il tuo popolo cristiano conosce queste cose? E chi gliele dice? Dov'è il catechismo degli adulti? E il catechismo su questo testo, che è un testo favoloso, dottrinalmente sicuro e ricco, ma anche letterariamente e poeticamente solido, bello. Ci sono delle pagine, poi ve ne leggerò metà, che è veramente di una profondità e di una bellezza unica. E mi è venuto un desiderio, io lo affido allo Spirito Santo, lo affido anche alla vostra preghiera: perché non ti metti a fare un catechismo sui social, Ambrogio? Sull'Eucaristia, sul catechismo della Chiesa Cattolica. Oggi non ci si può più vedere nelle nostre parrocchie ancora, chissà fin quando, per fare catechesi e poi la gente non esce. Perché? Chissà se il Signore mi darà sapienza, forza e costanza per poterlo fare. Io vi voglio leggere solo una pagina di questo testo magnifico, proprio l'inizio. Il nostro Salvatore, nel numero 1323, il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, inventò il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue. Noi lo chiamiamo sbrigativamente messa, usiamolo pure questo termine, ma come povero. Sapete da dove deriva messa? Deriva dalle ultime parole che in latino il prete diceva: ite, missa est, andate, l'è finita. E abbiamo memorizzato questo: oh, è finita, messa. Amici, è il sacrificio eucaristico del sangue, del corpo e del suo sangue. Istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, per sempre, la messa ci sarà sempre, fino alla fine del mondo, fino al suo ritorno, perché poi il Signore a concludere il mondo viene Lui, eh? Il sacrificio della croce. E aggiunge: e per affidare alla sua diletta sposa, la Chiesa. Amici, quando mai sentiamo la Chiesa chiamata la diletta sposa di Cristo? La sentiamo insultata, vilipesa, identificata col Vaticano, dietro il quale mettiamo le sue beghe, le sue... Oppure li identifichiamo col prete della tua parrocchia più o meno simpatico, la diletta sposa di Cristo, affida a lei il memoriale della sua morte e risurrezione. Quanti nomi ha l'Eucaristia? Sacrificio eucaristico, sacrificio della croce, il memoriale della sua morte e risurrezione, sacramento nel quale si riceve Cristo. Quante comunioni buttate lì, amici. Dovremmo andare rapiti. Nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura. Ci viene dato l'anticipo del paradiso. Per questo la Chiesa ha sempre sottolineato l'importanza di non lasciar mancare mai ai moribondi il viatico. Dicevo questo in una predica e una ragazza mi chiede: ma cos'è il viatico? Il viatico letteralmente vuol dire il cibo per la via, la merenda nel sacco, per il pranzo al sacco dell'ultimo viaggio, che è quello incontro a Gesù passando attraverso la morte. Oh Signore, accetta il nostro amore, povero com'è ma vero, verso la tua Eucaristia. Manda lo Spirito Santo sui tuoi sacerdoti e sul tuo popolo cristiano affinché possano desiderare, godere di approfondire, di vivere la Santa Eucaristia, il Corpus Domini. Amen.